Cari fratelli e sorelle, prima delle vacanze avevo cominciato con piccoli ritratti dei 12 apostoli. Gli apostoli erano compagni di via di Gesù, amici di Gesù, e questo loro cammino con Gesù non era solo un cammino esteriore dalla Galilea a Gerusalemme, ma un cammino interiore nel quale hanno imparato la fede in Gesù Cristo, non senza difficoltà perché erano uomini come noi, ma proprio perciò, perché erano compagni di via di Gesù, amici di Gesù che in un cammino non facile hanno imparato la fede, sono anche guide per noi che ci aiutano di conoscere Gesù Cristo, amarlo e di avere la fede. Avevo già parlato su 4 dei 12 apostoli, su Simone Pietro, su fratello Andrea, su Giacomo, il fratello di San Giovanni, sull'altro Giacomo, cosiddetto minore, che ha scritto una lettera che troviamo nel Nuovo Testamento, e avevo cominciato con Giovanni, l'evangelista, e raccolto nell'ultima catechesi prima delle vacanze i dati essenziali che delineano la fisionomia di questo apostolo. Quindi adesso vorrei concentrare l'attenzione sul contenuto del suo insegnamento. Gli scritti a cui oggi quindi ci vogliamo occupare sono il Vangelo e le lettere che vanno sotto il suo nome. Se c'è un argomento caratteristico che emerge negli scritti di Giovanni, questo è l'amore. Non a caso ho voluto iniziare la mia prima lettera enciclica con parole di questo apostolo. Scrive nella sua prima lettera, capitolo 4, Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. È molto difficile trovare testi del genere in altre religioni. E dunque, tali espressioni ci mettono di fronte ad un dato davvero peculiare del cristianesimo. Certamente, Giovanni non è l'unico autore delle origini cristiane a parlare dell'amore, essendo questo un costitutivo essenziale del cristianesimo. Naturalmente tutti gli scrittori del Nuovo Testamento ne parlano, sia pur con accentuazioni diverse. Se ora ci soffermiamo a riflettere su questo tema in Giovanni, è perché egli ce ne ha tracciato con insistenza e in maniera incisiva le linee principali. Alle sue parole dunque ci affidiamo. Una cosa è certa, egli non fa una trattazione astratta, filosofica, anche teologica, su che cosa sia l'amore. No, lui non è un teorico. Il vero amore, per natura sua, non è mai puramente speculativo, ma dice riferimento diretto, concreto e verificabile a persone reali. Ebbene, Giovanni, come apostolo, amico di Gesù, ci fa vedere quali siano le componenti, o meglio, le fasi dell'amore cristiano, un movimento caratterizzato da 3 momenti. Il primo riguarda la fonte stessa dell'amore che l'apostolo colloca in Dio, arrivando, come abbiamo sentito, ad affermare che Dio è amore. Giovanni è l'unico autore del Nuovo Testamento a darci quasi una specie di definizioni di Dio. E gli dice ad esempio, Dio è spirito, o Dio è luce. Qui proclama con folgorante intuizione, Dio è amore. Se noti bene, non viene affermato semplicemente che Dio ama, e tantomeno che l'amore è Dio. In altre parole, Giovanni non si limita a descrivere l'agire divino, ma procede fino alle sue radici. Inoltre, non intende attribuire una qualità divina a un amore generico e magari impersonale, non sale dall'amore a Dio, ma si volge direttamente a Dio per definire la sua natura con la dimensione infinita dell'amore. Con ciò, Giovanni vuol dire che il costitutivo essenziale di Dio è l'amore, e quindi tutta l'attività di Dio nasce dall'amore ed è improntata all'amore. Tutto ciò che Dio fa, lo fa per amore e con amore, anche se non sempre possiamo subito capire che questo è amore, ma è l'amore vero. A questo punto, però, è indispensabile fare un passo avanti e precisare che Dio ha dimostrato concretamente il suo amore entrando nella storia umana mediante la persona di Gesù Cristo incarnato, morto e risorto per noi. Questo è il secondo momento costitutivo dell'amore di Dio. Dio non si è limitato alle dichiarazioni verbali, ma si è impegnato, Dio si è, possiamo dire, impegnato davvero e ha pagato in prima persona. Come appunto scrive Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo, cioè tutti noi, da donare il suo Figlio unigenito. Ormai l'amore di Dio per gli uomini si concretizza e manifesta nell'amore di Gesù stesso. Ancora Giovanni scrive: Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. In virtù di questo amore oblativo e totale, noi siamo radicalmente riscattati dal peccato, come ancora scrive San Giovanni nella sua prima lettera: figlioli miei, se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ecco fin dove è giunto l'amore di Gesù per noi: fino all'effusione del proprio sangue per la nostra salvezza. Il cristiano, sostando in contemplazione dinanzi a questo eccesso di amore, non può non domandarsi quale sia la doverosa risposta. E penso che sempre di nuovo dobbiamo domandarci quale deve essere la mia risposta. Questa domanda finalmente ci introduce al terzo momento della dinamica dell'amore, da destinatari recettivi di un amore che ci precede e sovrasta. Siamo chiamati all'impegno di una risposta attiva, che per essere adeguata non può essere che una risposta d'amore. Giovanni parla di un comandamento e gli riferisce infatti queste parole di Gesù: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, così amatevi anche voi gli uni gli altri. La domanda è: dove sta la novità a cui Gesù si riferisce parlando di un comandamento nuovo? La novità sta nel fatto che egli non si accontenta di ripetere ciò che era già richiesto nell'Antico Testamento e che diciamo anche negli altri Vangeli: ama il prossimo tuo come te stesso. Nell'antico precetto il criterio normativo era disunto dall'uomo: amare l'altro come te stesso. Mentre nel precetto riferito da Giovanni, Gesù presenta come motivo e norma del nostro amore la sua stessa persona, come io vi ho amati. E così è così che l'amore diventa davvero cristiano, con la novità del cristianesimo, sia nel senso che esso deve essere indirizzato verso tutti, senza distinzione, sia soprattutto in quanto deve pervenire fino alle estreme conseguenze, non avendo altra misura che l'essere senza misura. Quelle parole di Gesù, come io vi ho amati, ci invitano, ma dobbiamo dire ci inquietano soprattutto, perché sono una meta che può apparire irraggiungibile, ma al tempo stesso sono uno stimolo che non ci permette di adagiarci su quanto abbiamo potuto realizzare, di essere contenti con noi stessi come siamo, ma di rimanere in cammino verso questa meta. Quell'aureo testo di spiritualità, che è il piccolo libro del tardo Medioevo, L'imitazione di Cristo, scrive su questo punto così, cito: il nobile amore di Gesù ci spinge a operare cose grandi e ci incita a desiderare cose sempre più perfette. L'amore vuole stare in alto e non essere trattenuto da nessuna bassezza. L'amore vuole essere libero e disgiunto da ogni affetto mondano. L'amore infatti è nato da Dio e non può riposare se non in Dio, al di là di tutte le cose create. Colui che ama vola, corre e gioisce, è libero e non è trattenuto da nulla, dona tutto per tutti e ha tutto in ogni cosa, perché trova riposo nel solo grande che è sopra tutte le cose, dal quale scaturisce e proviene ogni bene. Così nel libro terzo, capitolo quinto di questo libro. Quale miglior commento del comandamento nuovo enunciato da Giovanni? Preghiamo il Padre di poterlo vivere. Vivere anche se sempre in modo imperfetto, tuttavia così da contagiarne quanti incontriamo sul nostro cammino.